البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17.30 su Radio Wombat. Oggi presentiamo un libro di un giovane scrittore, Aysar Saifi, nato nel 1988 nel campo profughi di Deishej, situato a sud di Betlemme in Cisgiordania. Deishej è il quarto campo profughi più grande di tutta la Cisgiordania. Sorse nel 1949 in conseguenza della deportazione di circa 3.500 palestinesi provenienti da 45 villaggi a ovest di Gerusalemme e Hebron, fuggiti durante l'occupazione militare israeliana nel 1948. Inizialmente il campo era solo una tendopoli in cui gli abitanti vivevano nella speranza che vi fosse la possibilità di rientrare nei loro villaggi. Dal 1950 l'ANRWA, l'Agenzia ONU per il soccorso dei rifugiati, ha iniziato a costruire unità abitative modello container, sostituite poi nel corso degli anni da costruzioni realizzate autonomamente dagli abitanti, i quali erano ormai impossibilitati a rientrare nei loro villaggi, le cui case erano state distrutte dall'esercito israeliano. Dalle stime dell'ANRWA, oggi nel campo risulterebbe un totale di 13.000 abitanti. Il campo è luogo di verità, contraddizione, tragedia, felicità, oppressione, ma anche libertà nel coraggio di resistere. Aysar ha studiato management presso la Bethlehem University, si è laureato in studi sociali e dal 2011 al 2017 è stato attivo in varie associazioni culturali nel campo profughi dove è nato. La sua scrittura esplora le potenzialità espressive del racconto ed è in grado di mantenere viva l'identità del suo popolo. Lo scrittore aveva già all'attivo due romanzi, The Last Lesson, l'ultima lezione, pubblicato in arabo nel 2012, e The Gallow of Home, la forca di casa, del 2014 in inglese. Foglie di gelso è il suo terzo libro, una raccolta di racconti basati sull'esperienza della prigionia dei palestinesi nelle carceri israeliane. Il libro è pubblicato da Prospero Editore nella collana Geopoetica, la narrativa fondata su esperienze di viaggio e lavori di reportage. Un libro che dà voce ai senza voce. La prefazione è di Luisa Morgantini e la postfazione dello chef Rubio. Ascolterete Aysar subito dopo la selezione stampa a cura di Amicizia Italo-Palestinese e un breve stacco musicale. Da Buongiorno Palestina sono Claudio e vi parlo dei 5 articoli della settimana selezionati sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, dove sono riportati anche i riferimenti alle fonti. Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese di domenica scorsa. Com'è andata? Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha confermato il suo impegno a far cessare l'occupazione israeliana in rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite, in una dichiarazione ufficiale dell'ONU. Si è svolta online una conferenza palestinese-cilena dal titolo «Continuare la lotta per la decolonizzazione della Palestina, nuovi ostacoli, stesso obiettivo». Si tratta di un webinar a cui hanno partecipato Ilan Pappé, storico, e Omar Barghouti, cofondatore del movimento BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni di Israele. I partecipanti si sono espressi per la creazione di una democrazia in tutta l'area, ma è da notare che non hanno chiamata quest'area Israele e Palestina occupata, ma hanno chiamato quest'area con un termine unico, quello di Palestina mandataria. Ancora nella stessa giornata del 29, da Assisi, riconoscere lo Stato di Palestina, pace giusta tra Palestina e Israele. Si è trattato anche qui di un evento svoltosi ad Assisi alla Cittadella della Pace con webinar nazionale di 18 associazioni e sindacati per lanciare la campagna che sarà italiana ed europea per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Questo riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dei governi dell'Unione Europea, ha detto Luisa Morgantini, è importante sulle responsabilità di Israele, che non occuperebbe più dei territori palestinesi, ma uno Stato, lo Stato di Palestina. Infine, sempre domenica 29, si è avuta la presentazione del dossier per l'embargo militare verso Israele. È un dossier ricchissimo di informazioni e documentazione sulle relazioni militari, tecnologiche, scientifiche tra Italia e Israele. Secondo articolo. Puma Day, giornata di boicottaggio di Puma, fabbricante di materiali sportivi. Sabato 12 dicembre, giornata internazionale di boicottaggio di Puma, in quanto Puma sostiene le squadre di calcio delle colonie israeliane. Quindi non regalate scarpe né altro abbigliamento sportivo Puma per Natale. Zittire e diffamare il BDS. Si tratta di un articolo pubblicato dal giornale tedesco Junge Welt e parla di un gruppo tedesco che si chiama Bundestag 3 per la Palestina, che ha intentato una causa presso il Tribunale amministrativo di Berlino contro la risoluzione anti-BDS del Parlamento tedesco. La risoluzione affermava apoliticamente i modelli e i metodi di argomentazione del movimento BDS sono antisemiti. La risoluzione era stata votata a stragrande maggioranza da democristiani, socialdemocratici, liberali e parte dei Verdi. La Linke e parte dei Verdi avevano votato contro. I tre che hanno intestato la causa contro la risoluzione sono un tedesco, un palestinese e una ebrea tedesca. Censure di Zoom sulle censure di Zoom. Dunque, a settembre a San Francisco, Zoom vieta un evento su web organizzato da attivisti filo-palestinesi a seguito di pressioni dell'ambasciata israeliana e di gruppi sionisti. Anche Facebook fa la sua parte oscurando l'evento e anche YouTube fa la stessa. Il 23 di ottobre, altra giornata di iniziative su Zoom, proprio per discutere della censura di Zoom. Questa volta Zoom oscura la trasmissione nelle università di Hawaii, di New York e di Leeds in Gran Bretagna. Proteste da tutte le parti, ovviamente. A fine novembre, poi, in Italia, sempre con Zoom, presso l'Università del Salento a Lecce, viene organizzato un webinar sui rifugiati palestinesi. Dopo una ventina di minuti di trasmissione, ecco un intervento di disturbo esterno fatto di urli e insulti. Questa volta non è stata l'azienda Zoom a intervenire, ma qualcun altro che non desidera che si parli di palestinesi. Ma chi sarà mai? Ultimo Gideon Levi su Haaretz, due articoli. Uno riguarda i lavoratori palestinesi in Israele. Si intitola Per Israele sono illegali, ma sono gli operai palestinesi a costruire il paese. Levi ci parla della disumanizzazione dei lavoratori palestinesi che dalla striscia di Gaza o dalla Cisgiordania attraversano il confine e restano in Israele per ore o giorni senza permesso. Ci parla della licenza di compiere abusi su questi lavoratori e e ci parla di casi come quello di Iqtat, laureato, ma per il quale l'unico modo per sostenere la sua famiglia è attraverso questo duro e umiliante lavoro di manuale in Israele. Ed è questo Iqtat che gli agenti della polizia di frontiera lo hanno derubato, picchiato con mazze e tirapugni. Dopodiché il permesso di lavoro israeliano gli è stato anche revocato. Ancora Gideon Levi su Haaretz, sempre con un articolo che dice: Gli assassini sono l'orgoglio di Israele. Nel commentare l'ennesimo assassinio da parte di Israele, quello dello scienziato iraniano Levi, Levi enumera gli assassini orditi nel passato dal Mossad e conclude: Dopotutto, ancora una volta, abbiamo mostrato loro una delle cose che sappiamo fare meglio, oltre all'irrigazione a goccia e ai pomodorini, è quella di uccidere e distruggere. Gli articoli che ho citato li trovate per intero in italiano con le rispettive fonti sul sito di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. E con questo concludo e restituisco la linea. Dai microfoni di Radio Wombat. Oggi abbiamo in collegamento Aysar Al-Saifi, un giovane palestinese nato nel campo profughi di Deish in Abetrem nel 1988, ma che risiede attualmente in Italia. Aysar ha già pubblicato due romanzi, The Last Lesson, pubblicato in arabo nel 2012, e The Gallows of Homo, edito nel 2014. Oggi vogliamo parlare invece del suo ultimo libro, Fiori di Gelso, una raccolta di racconti sull'esperienza della prigionia dei palestinesi nelle carceri israeliane, che è uscito il mese scorso nella versione italiana. Buongiorno Isar. Buongiorno, buongiorno. Allora, innanzitutto ti vorrei chiedere come è nata l'idea di questo libro, Fiori di Gelso? Quando ho scritto questo libro, ho solo pensato per le persone che vive in questo campo, che lo conosco, i miei amici, i miei famiglia. In generale sono nato e cresciuto in un campo profughi, si chiama Dehesha. 80% della popolazione sono prigionieri, giovani, donne, uomini. Ognuno di loro è una storia, è una vita. E quindi ho deciso di dare la possibilità a quei prigionieri di raccontare le loro storie, le loro sofferenze. In generale loro no, non sono eroi, neanche terroristi, sono umani, solo cercano di avere una vita normale. E da questo punto sì, ho pensato per l'idea di Fogli di Gelso, per questo libro. E senti, il libro ha un'impronta, cioè non ha un'impronta unicamente politica, ma si concentra appunto sull'esperienza umana e i sentimenti che ne vengono suscitati. Ecco, volevo sapere, ma come hai raccolto materialmente queste testimonianze? Hai fatto un sondaggio porta a porta? Hai fatto riunioni? Com'è stato? In generale, lo conosco, io conosco tutte le persone in questo libro. Ho vissuto con loro e ho condiviso con loro alcune delle loro storie, delle loro sofferenze, mentre altre storie mi sono state raccontate dopo il rilascio. Ho solo provato il più possibile di concentrarmi sul lato umano, più che politico. Perché in generale queste storie vengono raccontate dal lato politico, dimenticano che i soggetti sono prima di tutti umani, persone, hanno suoni, hanno talenti. E sì, il libro infatti scorre molto veloce, con un linguaggio immediato, ma anche con una vena poetica. Ogni storia letta è un insegnamento di vita su valori che noi, gente libera, che non sa cosa sia vivere sotto occupazione, non sa forse neppure apprezzare. E tu scrivi, ad esempio, il campo è un luogo che ti permette di vedere il mondo con chiarezza. O ancora, la musica è come la libertà, un posto senza muri. Ecco, leggendo queste frasi molto belle e toccanti, vorrei sapere, ecco, da dove prendi questa forza di pensiero nell'andare oltre le apparenze contingenti del quotidiano, di ogni giorno? Guarda, quando ero giovane nel campo profughi di Heysha, in inverno spesso non c'era elettricità. Io e i miei fratelli e le mie sorelle passavamo il tempo seduti vicino a una piccola candela a gas, giocando con la luce, ascoltando le storie che ci raccontava il mio padre, il mio papà, in cui momento. Ho imparato ad andare oltre il boio e le mura e andare lontano usando la mia immaginazione per vedere le cose belle e per non avere paura. E quindi posso dirti oggi che ho preso questa forza dalle mie memorie e dei miei ricordi. Le storie che raccontano hanno il diritto di essere raccontate e ascoltate. Sono storie molto forti e intense perché sono stati vissuti così. Sarebbe interessante, ecco, se tu mi dicessi, tra le tante testimonianze e le esperienze che tu hai narrato in questo libro, quella che ti ha più toccato nella tua sensibilità e che ti ricordi immediatamente, ti viene spesso davanti agli occhi e nei pensieri. Guarda, ogni storia è diversa dall'altra. Qualche storia parla di amici, parenti, persone che sono stati uccisi dall'esercito israeliano, come le storie di miei amici Raed e Motaz. E quindi queste storie sono molto dolorose per me. Altre sono storie più ironiche e più leggere, che parlano della vita in prigione, durante per esempio le investigazioni. Quindi ogni storia è differente e ha una differente eco dentro di me, ma sono tutto importanti per me, quindi non posso sceglierne una. Giustamente, sì, hai ragione. E ecco, e l'opinione invece riguardo l'occupazione o il rapporto con il nemico vicino o anche ancora sulla tua propria terra, che ti ha colpito di più di questi racconti? Guarda, certo l'occupazione ha un effetto importante nella mia vita. Non ho vissuto la mia infanzia come un bambino normale. Non mi sono seduto davanti al mare per giocare con la sabbia come il resto dei bambini palestinesi. Ci siamo imposti di affrontare la realtà e di portare con noi molte responsabilità, molte esperienze e molti dolori. E questa a causa delle occupazioni. Io penso che la cosa più difficile che vivere sotto occupazione è la cultura dell'occupazione, che sarà ancora dentro di te per molto tempo, come incapacità di adattarsi a una nuova vita. Baura e sentirsi contentamente o controllati sempre, e molti altri così. Facciamo adesso un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo la conversazione con Aizar. قل لي علاش راك تفكر راك معانا وراك وحيد نزهة في البحر وانت غايص وراح لبعيد باين قلبك معمر باين ما عندك متين لي موالف المحال مسوى طول عمره نار تقيد كيفاش تلعب شوف اسمها كيفاش صافية وانت اسمك مدبر كي اللي ضحكت له الدنيا وعطت له بالاحسان كي اللي كيما انت يبكي ويصبر العذاب Riprendiamo la nostra conversazione dai microfoni di Radio Wombat con Aizar Al-Saifi. Prima abbiamo parlato del suo ultimo libro, Fiori di Gelso. Adesso vorrei invece domandare a questo giovane autore, dato che hai scritto anche un interessante articolo dal titolo La mia vita in un campo di rifugiati palestinesi e quindi hai sentito, come dire, il bisogno di parlare di questa tua esperienza e hai trovato le parole per farlo. Ci puoi dire cosa ha voluto dire per te essere nato e aver vissuto in un campo profughi, dove la vita è difficile, limitante per il proprio futuro, dove non ci sono parchi, campi di calcio o altri spazi aperti in cui giocare? Guarda, qualche volta ci sono alcune domande a cui è difficile rispondere. Non perché non so cosa rispondere, ma perché non so più cosa è la vita normale e cosa non è normale. Sicuramente ho bisogno di molto tempo per spiegare come va la vita nel campo profughi. Sono nato e cresciuto in un piccolo campo profughi dove ci sono più di 15.000 persone che vivono in meno di un chilometro. Il 60% della popolazione è costituito da minori di 18 anni. E come ho detto nell'articolo, il campo profughi è un posto piccolo dove non c'è abbastanza spazio per i bambini di giocare, le case sono più vicine tra loro, ci sono problemi di acqua e elettricità, le strade del campo erano i luoghi in cui giocavamo, imparavamo il significato della vita, la politica e come essere sognatori e combattenti per cambiare la nostra realtà. Oggi che vivo in Italia posso capire che la mia vita di quando ero bambino era una vita di poverità. Andavo in una scuola in cui le classi erano di metallo e eravamo in 50 per ogni classe. In inverno uscivamo di casa con di sacchetti di plastica ai piedi per proteggerci dal freddo. A quel tempo mi sembrava tutti normali, adesso non lo so più. Di quei 50 compagni di classe, la maggior parte si è laureato all'università. La vita nel campo profughi non è facile. E ciò che le rende più dura è l'esercito israeliano. L'esercito israeliano continua ad invadere il mio campo con una frequenza di due volte alla settimana. Durante questi attacchi, che di solito succedono nella notte, molti giovani rimangono feriti, a volte uccisi. Per questo i ragazzi si salutano ogni sera prima di tornare a casa, come se fosse l'ultima volta. Molti tuoi compagni, come hai detto, hanno continuato gli studi, ma altri non hanno potuto continuarli perché arrestati dall'esercito israeliano, così come ho letto è accaduto anche a tuo fratello Anas. Come è accaduto che sono stati arrestati questi tuoi compagni e soprattutto con quali capi di imputazione? In generale, l'età tra i 17 e 20 anni è l'età target dall'esercito israeliano. Questa fa parte del sistema israeliano e della loro architettura di controllo per danneggiare la società palestinese e per danneggiare i giovani. E poi creare generazioni piene di paura, trauma, problemi psicologici. Quali sono i motivi per cui sono stati arrestati? E nel mio libro, per esempio, non ho risposto a questa domanda perché non è logico, forse difficile per una persona internazionale di capire che una palestinese è stato arrestato per niente, così solo per essere politico o scrittore, per esempio. Ma la realtà è, per esempio, tra il 1980 e il 1990 i romanzi, i giornali, i libri erano illegali. Molte persone sono state arrestate per avere solo libri a casa. Per Israele questa fa parte dell'attività politica. E per questo molte persone vengono assassinate, come per esempio gli scrittori Hassan Kanafani. In generale il 60% della popolazione è stato arrestato almeno una volta nella vita, principalmente per detenzione amministrativa, che significa che sei stato arrestato senza motivo, in attesa che vengano trovati delle prove contro di te. Come il mio fratello, per esempio, che ha passato quasi un anno in prigione per questo motivo. Quanti anni aveva tuo fratello? Adesso lui è 20, ma sì, lui quando lui ha arrestato era 18 anni. Dato che per un certo periodo di anni hai svolto questo ruolo, cioè come attivista politico, cosa ha significato per te appunto svolgere questo ruolo nel campo? Essere persone politiche non è qualcosa che scegliamo di essere. Come ho detto, sono nato in un luogo dove tutti non è logico, non è normale. La vita in un campo profughi crea molte domande nella tua testa, a cui devi cercare delle risposte. Il viaggio alla cercare di risposte ti rende per forza combattente e una persona politica e culturale, perché tutti connesso, la libertà di studiare, lavorare, muoversi, parlare, viaggiare, tutta la nostra vita è influenzata dalle occupazioni. Mentre gli israeliani stanno cercando di prendere più terra, costruire più coloni, rimuovendo l'identità e la tradizionale e la cultura palestinese e la nostra storia anche dai libri e dalle mappe, per esempio. E qui il nostro dovere sarà educare le nuove generazioni sulla nostra cultura, storia e identità. L'attivismo politico e la resistenza nel campo profughi e soprattutto garantirci l'esistenza, cioè che il popolo palestinese continuare ad esistere con la sua storia e la sua identità. Senti, un'ultima domanda, Aizar. Che prospettiva vedi per il futuro della Palestina? Cioè, tu protendi più verso la soluzione di due Stati o di un solo Stato? Guarda, la soluzione di un Stato è stata rifiutata dal governo israeliano in molti incontri internazionali. E la soluzione di due Stati non è più logica, perché la realtà dice che il governo israeliano sta occupando più del 45% della terra di Cisgiordania. Ci sono più di 300 insediamenti israeliani che sono stati costruiti e sono ancora in aumento contro tutte le leggi internazionali. Per me, tante volte ho sognato che Palestina sarà aperta a tutti, non solo agli israeliani, ma anche agli emigranti che cerca un posto dove vivere. Quindi forse un giorno. Ce lo auguriamo anche noi e lottiamo anche noi come attivisti perché questa cosa possa trovare veramente una soluzione degna e giusta per il popolo palestinese. Dopo, siamo già a 72 anni da un famoso 48, la Nakba. Bene, ringraziamo Aysar Al-Saifi con l'invito di averlo di nuovo a Radio Wombat. Quando uscirà il tuo prossimo libro? Non so se ce n'hai già uno nel cassetto, ma comunque ti inviteremo volentieri di nuovo da noi. Grazie di nuovo. Grazie, ciao. Grazie a voi e grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando adesso. Grazie. Ascolterete ora due brani tratti dai racconti di Aysar del libro Foglie di gelso. Prendi e leggi, disse Mina all'amica. Cosa sono? Sono lettere in pillole. Il detenuto palestinese scrive il suo messaggio su un foglietto di carta che poi avvolge in un velo di plastica a mo' di pillola. La dà poi a un compagno che sta per essere rilasciato. Questi la ingoia e una volta in libertà la espelle prima di consegnarla al destinatario. È uno dei modi che i detenuti palestinesi hanno per rimanere in contatto con chi sta fuori. Mira non era riuscita ad abbandonare la musica. Nonostante l'occupazione israeliana l'avesse arrestata e condannata a 4 mesi di carcere, si era costruita uno strumento musicale con dei rametti. Lo strumento le era stato poi confiscato e lei era stata messa in cella di isolamento come punizione per aver contravvenuto alle regole delle carceri israeliane. Rima ripeteva sempre che la musica è l'espressione intensa delle emozioni, una lingua strana e bella, spaventosa e confortante, ribelle, forte, debole e dolce. Avete notato come la musica sia in grado di far rivivere la memoria quando è anch'essa momentaneo smarrimento della memoria? E come spazia tra futuro e passato l'intervallo tra le corde di una chitarra? Rima, con una risata, spiegò quelle parole alle sue compagne, anche se sui loro volti non aveva trovato alcuna traccia di stupore. Intendo dire che la musica è una lingua senza catene. Poi guardò i muri della cella e aggiunse: è come la libertà, un posto senza muri. Non ne abbiamo mai parlato, ma in questo periodo, a causa del Covid-19, molte delle nostre iniziative in presenza sono state annullate o sostituite da collegamenti video. E per questo uno dei nostri compagni di amicizia italo-palestinese e del BDS, che avrebbe voluto partecipare e intervenire ad una di queste iniziative, ci ha mandato un file che noi trasmettiamo adesso molto volentieri. Io sono Leo dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Il 1° di novembre scorso, qualcuno si ricorda, doveva svolgersi al Teatro dell'Affratellamento l'incontro annuale contro la guerra. È stato ovviamente cancellato a causa Covid. In quell'occasione volevo parlare della Palestina, naturalmente invitando tutti a sostenere la Palestina e denunciare la collaborazione militare e scientifica Italia-Israele, boicottare i prodotti e eventi culturali israeliani e parlare della resistenza palestinese. Avrei recitato questa poesia anonimo palestinese. Resisterò. Resisterò senza paura. Sì, senza paura, io resisterò. Sulla terra del mio paese resisterò. Che mi rubino tutto quello che ho, resisterò. Che ammazzino i miei figli, resisterò. Che facciano saltare la mia casa, oh, mia casa amata, all'ombra dei tuoi muri, io resisterò. Resisterò senza paura. Con tutta la forza del mio animo resisterò. Col mio bastone, col mio coltello resisterò. La bandiera in mano resisterò, che mi taglino la mano e insozzino la bandiera. Con l'altra mano resisterò. Resisterò senza paura. Palmo a palmo, sul mio campo, sul mio giardino resisterò. Con la fede e la volontà resisterò. Con le unghie e con i denti resisterò. E quando anche il mio corpo non sarà che una piaga, col sangue delle ferite resisterò. Resisterò senza paura. Per la rassegna musicale di oggi ascolterete alcuni brani di una cantautrice e musicista algerina di origine berbera, Suad Massi. El Mutakallimun è il suo sesto album, uscito nell'aprile del 2015. L'album rende omaggio ad alcuni grandi poeti di lingua araba come Al-Mutanabbi, Ahmed Matar, Zuhair ibn Abu Sulma, Al-Hasmai e ha come scopo la messa in evidenza della bellezza e dell'attualità della poesia araba. Suad Massi ha scelto gli autori che non tenevano la lingua al sicuro in tasca. Prestando la sua voce ai maestri della parola, sa di perpetuare una tradizione di opposizione che non risale a ieri. A questo scopo ha sfruttato la musicalità intrinseca dei poemi interpretandoli in chiave rock, folk, flamenco, bossa nova e altro. Suad Massi è anche una di quegli artisti che si rifiutano di esibirsi in Israele. «Non sono contro Israele», ha dichiarato. Sono contro il governo israeliano e le sue politiche. Ascolteremo tre brani che non fanno parte dell'ultimo album. Sono Egisdiani, Non avrei dovuto innamorarmi di te, Caluni, Lasciami e Rare Enta, Senza di te. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah. Zuhair Mijouri, thank you. الغزال على الغزال القلب القلب سال على الغزال ودموع العين سيالة سيالة سيالة القلب القلب سال على الغزال ودموع العين سيالة سيالة صرا لي عباد الله اليوم كيف الهبال صرا لي كيف الهبال ومن راني في حالة من راني في حالة في حالة في حالة بنوراني في حالة منوراني في حالة سلابة خلف صوتك Thank you. قولي علاش راك تفكر راك معانا وراك وحيد الناس هي في البحر وانت غايس وراحت لبعيد راه باين قلبك معمر راه باين ما عندك ما تزيد اللي موالف لبحال مصر طول عمرو نار تقيل خلوني خلوني خلوني نبكي على رايي وخلوني خلوني خلوني نبكي على زاري خلوني خلوني خلوني نبكي على رايي وخلوني خلوني خلوني نبكي على زاري شوف الناس كيفاش زاهية شوف الناس كيفاش تلعب شوف اسمها كيفاش صافية وانت اسمها كم دبا كاين اللي ضحكت له الدنيا وعطت له بلا حساب كاين اللي كيما انت يبكي ويصبر لعدا وخلوني خلوني خلوني نبكي على رايي وخلوني علي ما تقدرني صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا صفقة